In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Questa parabola Gesù la dice per tutti noi. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Chi è il cieco? Il cieco è una persona che non ha l'uso degli occhi, non riesce a vedere con il canale privilegiato per vedere che sono gli occhi. E quindi, non riuscendo a vedere, anche il suo incedere è un po' incerto, il suo camminare è un po' incerto. Quando uno non ha la vista, non cammina tanto spedito. Deve stare ancora più attento, ha bisogno dell'aiuto degli altri o quantomeno di un bastone, dello sviluppo degli altri sensi più particolareggiato. E Gesù ci vuole far capire che noi siamo ciechi quando vediamo la realtà con gli occhi nostri e non con gli occhi di Dio. E vedere la realtà con gli occhi di Dio vuol dire avere la fede. La fede possiamo proprio definirla così, avere lo sguardo di Dio, la visione di Dio sul mondo, sulle cose, su se stessi. Questo è avere la vista, questo è avere la fede. Allora oggi concentriamoci su questo, domandiamoci, ma io vedo la realtà con gli occhi stessi di Dio, come la vede Dio? Questo vuol dire avere la fede. Ho la vera fede, cioè vedo la realtà, giudico la realtà, il mondo, me stesso, con gli occhi di Dio. A questo riguardo vorrei raccontarvi un episodio che mi è capitato quando avevo 20 anni. Ho perso mio padre, malato di cancro, e mi ricordo che la vigilia della sua morte eravamo intorno al suo letto, io ho chiesto: papà, come stai? E lui non si lamentava mai, era molto un animo proprio mite e aveva accettato veramente il cancro. E lui disse: come Cristo in croce, perché aveva da una parte le flebo, dall'altra le trasfusioni ed era proprio con le braccia aperte come il crocifisso. E poi ha aggiunto: ma non ti preoccupare, io ho il biglietto diretto Roma Paradiso. E ha detto anche: non preoccuparti nemmeno per te, perché io vedrò la realtà con gli occhi stessi di Dio e ti aiuterò di più di là che non di qua, proprio perché avrò questa visione. E questo mi ha colpito molto e ho pensato: ogni volta che noi abbiamo la fede, veramente vediamo la realtà con gli occhi di Dio. Allora oggi chiediamo al Signore questo dono di vedere la realtà, giudicare la realtà con gli occhi stessi di Dio. E come facciamo ad arrivare a questo punto? Qual è il segno che ci fa capire che vediamo la realtà con gli occhi stessi di Dio? Se giudichiamo le cose come le giudica il Vangelo. E proprio prima di parlare di questa parabola, Gesù aveva dato un'istruzione sull'amore dei nemici, sul vero amore che consiste non solo di amare quelli che ti amano, perché questo lo sanno fare un po' tutti, ma amare anche chi ti si oppone, anche chi ti fa del male. Questo è il dono della vista che dobbiamo chiedere al Signore. Dobbiamo chiedere al Signore di vedere il beneficio dell'amore vero, dell'amore che si rivolge a tutti, perché se escludiamo anche una sola persona vuol dire che non amiamo. Perché? Perché l'amore è universale, è verso tutti, è lo stesso amore di Dio che è riversato nei nostri cuori. Allora proponiamoci oggi di vivere di fede, di vivere secondo quello che il Vangelo ci insegna. Buona giornata.